Seguo i segnali dell'inconscio che mi manda a dire: non ti fidare di chi ti parla solamente di stile. Io da una vita ci combatto con sta situazione tragica, illusa di farcela. Sto per impazzire di gioia e dolore, manco alla televisione. Tra me scomposte irreali, risposte banali per tutti i problemi. I tuoi mali si sciolgono.